A bordo campo di Dario Ricci. Il Duce riceve i calciatori azzurri che hanno assicurato all'Italia la Coppa del Mondo, presentati dal ministro segretario del partito, presidente del CONI. Ebbene, a bordo campo, oggi raccontiamo una storia che ci riporta indietro nel tempo, ci riporta all'Italia e al calcio degli anni 30, una storia che lega il football italiano a quelle che sono state le recenti celebrazioni di questa settimana del Giorno della Memoria. E allora, per raccontarcela questa storia, abbiamo nostro ospite Matteo Marani, collega, giornalista, direttore del Guerin Sportivo. Benvenuto a bordo campo, Matteo. Bentrovati a voi. Allora, perché ospitiamo oggi Matteo Marani? Perché Matteo è l'autore di un libro prezioso, importante, Dallo Scudetto ad Auschwitz, un accostamento che fa venire i brividi, ma anche questa è stata la Shoah. Chi è il protagonista di questo libro? Siamo negli anni 30, siamo nel calcio dominato da Bologna e Internazionale Ambrosiana, perché così il regime voleva si chiamasse quella che era ed è oggi l'Inter. C'è un protagonista che lega queste due città e queste piccole grandi storie di calcio alla grande storia, vero? Sì, sì. Questo personaggio si chiama Arpad Weiss, è stato probabilmente il più grande allenatore degli anni 30 insieme a Vittorio Pozzo, che vinceva con la nazionale italiana, e con Carcano, che segnava il quinquennio della Juventus. Weiss vinse con l'Inter nel 1929-30, ricordo che fu il primo campionato girone unico, quindi il primo scudetto vero, reale nella storia del calcio italiano, e lo vinse la guida dell'Ambrosiana, appunto dell'Inter, e poi si trasferì nel 35 a Bologna e fece in tempo a vincere altri due scudetti e mezzo. Il mezzo è per via delle leggi razziali che nel 38 lo obbligarono a lasciare il lavoro, quindi a lasciare la panchina del Bologna e a lasciare pochi mesi dopo l'Italia, e da lì sarebbe poi iniziato questo cammino tragico verso la morte ad Auschwitz. È un personaggio, credo, enorme nella storia del calcio, che purtroppo il calcio, ma questo stesso paese, aveva dimenticato e fatto precipitare nell'oblio. Grazie proprio al tuo libro, la storia di Arpad Weiss è stata recuperata e fra poco ne parleremo. Dicevamo del contributo specifico che questo grande allenatore di origine ungherese diede al calcio italiano. Non solo grande uomo di campo, ma anche grande teorico, tant'è che con Vittorio Pozzo, come ricordavi, il CT che guidò l'Italia ai due titoli mondiali del 1934 e 38, Weiss scrisse anche un manuale del calcio, godibilissima lettura ancora oggi. Sicuramente, un libro straordinario, se pensiamo all'anno in cui fu scritto, il 1930, lo scrisse insieme a un dirigente dell'Inter, ed è un libro che anticipa poi il calcio degli anni successivi, l'attenzione per esempio alla preparazione, all'allenamento, all'alimentazione, temi allora ignorati da praticamente tutti gli allenatori. Tra l'altro Weiss fu il primo allenatore che cominciò ad allenarsi con i giocatori, era una regola che non esisteva precedentemente. Prima citavo Carcano era abituato in giacca e panciotto a guardare gli allenamenti della Juventus, invece Weiss per la prima volta si mette la tuta e fa allenamento, preparazione atletica con i suoi giocatori, tatticamente un innovatore. Apparteneva Weiss alla scuola ungherese non solo dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista culturale, di quella Mitteleuropa che respirava un'area europea, quindi era un allenatore aperto a quelle che erano le innovazioni che circolavano in quel momento nell'Europa, quindi ha un ruolo, credo, importante, al di là dei cinque campioni del mondo che ha dato l'Italia, al di là degli scudetti, al di là del fatto di essere stato lo scopritore di Meazza, che rimane il più grande giocatore probabilmente del calcio italiano, ma anche proprio è colui che introduce molte delle novità che poi fanno parte di oggi, non ultima il ritiro, che prima di lui non esisteva nel calcio. Donzelletta torna alla campagna, leggendo la Gazzetta dello Sport, e come ogni ragazza lei va fatta per Meazza, che farete a tempo di foxtrot? Ha appena 14 anni quando l'Inter lo scopre e lo compra, e non ne ha ancora 17 quando lo fa esordire in prima squadra. Siamo nell'estate del 1927. Hai detto un nome magico, no? Per la storia del calcio italiano, mondiale e per la storia dell'Inter. Quello di Meazza. Ecco, Weiss, come ricordavi, è anche colui che scopre quello che sicuramente è stato uno dei più splendenti e fulgidi talenti del nostro calcio. Come avviene questa scoperta? Ma avviene che Meazza ha 16 anni, si gioca a Como la Coppa Volta, è una coppa che in quel momento lì ha una sua nobiltà, un suo prestigio. Bernardini, che gioca centravanti, non ha più voglia di farlo, per cui dice a Weiss che vuole arretrare, vuole diventare centromediano metodista, allora era il ruolo cruciale, chiave nel metodo, nel sistema di gioco di allora. E quindi Weiss sperimenta e si inventa questo ragazzino che ha 16 anni, che è nato a Porta Romana a Milano, che è un ragazzino che ha avuto dei problemi nella vita, nel senso che è dovuto crescere senza papà. Ha lottato, ha conosciuto il duro della vita e con lui diventa non solo il più grande calciatore di quell'epoca, ma credo anche il più grande divo di quell'epoca lì, belle donne, automobili, non a caso poi il regime si impossessa anche dell'immagine di Meazza, cioè mentre da una parte scarta Weiss e lo manda fuori dal paese, dall'altra si impossessa del suo miglior prodotto per farne un po' l'emblema sportivo di quell'epoca. Da Milano poi la carriera di Weiss negli ultimi anni in Italia si sviluppa a Bologna, no? Che Bologna è quella di Weiss, di Arpad Weiss? Ma è una Bologna inizialmente pacifica, una Bologna come in genere, cioè accogliente, città ospitale, e che poi vira tra il 37 e il 38 come vira tutto il paese. Tra l'altro Bologna è una città che in quegli anni lì esprime anche figure importanti dentro il regime fascista, cito ovviamente Leandro Orfinati, ma ce ne sono altre, e l'ondata di razzismo, di xenofobia che si crea in quegli anni lì, soprattutto in chiave anti-ebraica, anche Bologna, quindi se ne permea e diventa una città intollerante. Le leggi razziali del 1939 mandano in frantumi il sogno di Arpad Weiss, che in fondo è il sogno degli uomini semplici, quello di poter continuare a fare il proprio lavoro di cui Arpad era follemente innamorato, no? Cosa accade? Ma accade che nell'agosto del 1938 le leggi razziali colpiscono due categorie: gli studenti, che non si possono più iscrivere alle scuole da settembre, e gli ebrei stranieri. Sono proprio le prime due categorie perseguitate dalle nuove leggi razziali del fascismo, e purtroppo Weiss ha questa doppia colpa, quindi di essere ebreo e di essere straniero, motivo per cui entro 6 mesi deve lasciare il regno. L'ultima partita che lui segue come allenatore del Bologna è nell'ottobre del 1938, al termine di quella deve cercarsi non solo un nuovo lavoro, ma ovviamente un nuovo paese, e inizia tutta la parte, diciamo, privata e più tragica della sua parabola personale, che nella prima parte è stata una parabola condita, accompagnata da successi straordinari, il trofeo delle esposizioni a Parigi contro il Chelsea, i ricordati scudetti, e invece la seconda parte diventa purtroppo per lui molto privata e molto di solitudine. Nel gennaio del 39 Weiss, insieme alla famiglia, lascia il paese, fa un breve passaggio a Parigi cercando lavoro ma non trovandolo, finché non trova lavoro in Olanda in una squadrina abbastanza piccola che si chiama Dordrecht, che allora giocava in Serie A, e lì Weiss diventa allenatore. È proprio l'Olanda che sembra l'ultima meta, l'ultima isola di salvezza, no? Per questa famiglia, per Arpad Weiss, la moglie Elena, i figli Roberto e Clara, diventa invece la trappola da cui non si può più fuggire, no? L'Olanda diventa sinonimo di Westerbork, il campo da cui poi partiranno i treni per Auschwitz. Sì, la famiglia Weiss arriva in Olanda nella primavera del 1939, Weiss fa in tempo a allenare per 2 stagioni il Dordrecht, tra l'altro togliendosi anche qualche soddisfazione come battere l'Ajax e il Feyenoord, che tutt'oggi sono le squadre più importanti del paese. Anche lì, questo evidentemente era un po' una sua caratteristica, lancia molti giovani in prima squadra, e tutto sembra procedere abbastanza serenamente finché nel 1940 l'invasione dell'Olanda da parte della Germania gli porta in casa i nazisti, e portandogli in casa i nazisti questo significa nel giro di pochi mesi la perdita del lavoro, la perdita di nuovo della scuola per i figli, tutta una serie di limitazioni che vanno dalla possibilità di accedere alle biblioteche per i libri, ai negozi, diciamo proprio agli spazi vitali, finché nell'agosto del 1942, come ricordavi, la famiglia Weiss viene arrestata nella propria casa di Dordrecht e vengono tutti trasferiti a Westerbork, campo di lavoro, campo intermedio prima di Auschwitz, dove 2 anni più tardi passerà Anna Frank. Sarà proprio Auschwitz la meta finale della famiglia Weiss, così come di milioni di ebrei, no? Roberto, Clara e Elena vengono uccisi subito con il gas, Arpad resiste, prova a sopravvivere fino a quando anche lui viene sopraffatto dalla Shoah, dalla tragedia che ha inghiottito buona parte dell'ebraismo europeo e mondiale. Ci sono dei tasselli che ancora devono essere messi a posto da questa storia che proprio il tuo libro, Dallo scudetto ad Auschwitz, ha riportato alla luce. Manca ad esempio ancora una foto, vero? Sì, manca la foto di Elena Rechmiser, o se vogliamo dirla in ungherese, visto che lei era una donna ungherese, Ilona Rechmiser. Fu la moglie di Weiss ed è la figura marginale in questa storia, penso che di lei sappiamo poco, pochissimo, dei figli qualcosa in più perché frequentarono le scuole a Bologna, della moglie non ho trovato soprattutto questa fotografia, è un po' il mio dispiacere, insomma, il fatto che lei non abbia avuto un volto, mentre dei figli l'abbiamo trovato, mentre di Arpad Weiss esistono molte foto, essendo stato un personaggio pubblico, di questa donna non c'è ancora un volto e, ecco, ripeto, questo è l'ultimo tassello che vorrei mettere in questa storia. Questa storia, tra l'altro, come spesso accade, ha risvegliato però le coscienze. Arpad Weiss era stato clamorosamente e misteriosamente dimenticato dal calcio italiano, eppure questo tuo volume in qualche modo ha permesso di recuperare la sua lezione, la sua storia. A testimoniarlo c'è una coppa che adesso viene giocata dai ragazzini, no? Nel nome di Arpad Weiss, e una targa allo stadio Dall'Ara di Bologna. Ci racconti meglio questi particolari? Sì, intanto racconto un aneddoto. La sera prima dell'uscita del libro, così per mia curiosità, ho digitato Arpad Weiss su Google e non c'erano siti, non c'era nessuno che se ne occupasse, a parte un paio relativi agli almanacchi, cioè al fatto che aveva vinto i campionati. Oggi ci sono migliaia e migliaia di siti che si occupano di questa storia, che l'hanno raccontata da Wikipedia in giù, insomma, di Weiss si sa finalmente la sua tragica fine e poi c'è stata una risposta da parte delle istituzioni, nel senso che la Regione Lazio, come ricordavi tu, 2 anni fa ha deciso di tenere a battesimo questa coppa che porta il nome di Arpad Weiss ed è fatto proprio contro le intolleranze, contro l'antisemitismo, contro fenomeni che purtroppo serpeggiano parecchio nelle curve italiane, e il Comune di Bologna ha deciso anch'esso l'anno scorso di apporre questa targa, questa lapide allo stadio Dall'Ara, che allora si chiamava Littoriale, fu lo stadio dove Weiss vinse 2 dei suoi 3 scudetti, e oggi c'è una lapide che lo ricorda e ricorda anche la tragedia immane che fu la Shoah, che colpì quest'uomo come altri 6 milioni di ebrei. Manca ancora un tassello, Matteo, per completare il ricordo di Arpad Weiss. Manca un gesto concreto, una targa, una partita amichevole da parte dell'Inter, di quell'Inter che è stata tanta parte appunto della passione calcistica di Weiss e che da questo allenatore tanto ha ricevuto. Vogliamo fare da questi microfoni un appello alla società nerazzurra affinché al più presto colmi questa piccola grande lacuna. Ma molto volentieri, io spero, sono stato sostenitore un po' di tempo fa dell'idea di poter far giocare magari Inter e Bologna proprio un amichevole in memoria di quest'uomo qui che si è assegnato in maniera indelebile la storia delle due società, e spero davvero da parte dell'Inter che si possa arrivare a organizzare qualcosa per ricordare un suo grande, grandissimo allenatore. Noi ce l'abbiamo già in calendario una data buona per questa amichevole, per questo Inter Bologna. Pensate, il 23 agosto del 2010 ricorrerà il centenario di Giuseppe Meazza, proprio il campione lanciato e scoperto da Arpad Weiss. Beh, vi immaginate una data migliore per un San Siro pieno e per un amichevole Inter Bologna per ricordare questo grande allenatore? Intanto grazie a Matteo Marani per aver ripercorso la sua storia insieme a noi qui a Bordo Campo. Grazie a voi. A Bordo Campo. Ho dato veramente il massimo in questo esercizio, che probabilmente era quello che mi vestiva meglio, in quello su cui avevamo puntato di più sin dall'inizio, e è andata bene. Spero che abbia un grande peso, che aiuti tutte le sincronette che si stanno avvicinando in questo momento al mondo agonistico a crederci, a lavorare al massimo e a non arrendersi mai, perché ne vale veramente la pena. Era il 23 luglio scorso, Foro Italico di Roma, campionati del mondo di nuoto e arrivava così per l'Italia una medaglia storica, il CT del nuoto sincronizzato italiano Laura De Renzis in lacrime e dalla gioia, l'intera piscina del Foro Italico nel caldo soffocante di Roma in festa per celebrare Beatrice Adelizzi, prima medaglia della storia del nuoto sincronizzato italiano, bronzo nel solo libero. Beatrice, benvenuta a bordo campo e credo proprio un'emozione indimenticabile quella di quella giornata romana, no? Sì, proprio una giornata indimenticabile, è stata davvero una bellissima esperienza, il pubblico mi ha sostenuto tantissimo e è andata come doveva andare, quindi assolutamente molto soddisfatto della giornata. Beh, insomma, tra l'altro una medaglia storica arrivata dopo anni di sacrifici, perché tu sei giovanissima, hai 21 anni, una medaglia che ha coronato i sacrifici di una vita intera, agonisticamente parlando, no? Beh sì, io ho fatto 7 anni di nazionale, un anno peggio dell'altro e allenamenti molto duri, si parlava di 8-10 ore di allenamento al giorno tutti i giorni, quindi sono stati tanti sacrifici per grandi soddisfazioni. Eh sì, sento che parli all'imperfetto, perché? Perché da luglio ad oggi qualcosa è cambiato, no? Pochi giorni fa hai un po' sorpreso tutti dicendo addio al nuoto sincronizzato per seguire un'altra strada. Qual è questa strada? Sì, ho scelto di smettere per cercare di laurearmi, io faccio chimica e mi sono fatta un paio di calcoli per capire come sarebbe stato possibile conciliare il nuoto sincronizzato con lo studio e purtroppo ho capito che era impossibile. Ho chiesto per più mesi sia alla federazione che all'università se c'erano possibilità, ma da entrambi i lati mi è arrivato un no più o meno secco. Quindi ho fatto la mia scelta, dopo aver preso grandi soddisfazioni, dopo essermi dedicata tanto a questo sport, ho intenzione di dedicarmi alla chimica. Non sorprende la tua scelta, nel senso che chiaramente è ben misurata e tra l'altro può aprirti anche una carriera diversa, ma che lo sport italiano lasci uscire dall'acqua una campionessa del tuo livello e con le tue prospettive, perché insomma Londra 2012 avendo una medaglia mondiale già al collo non è poi così lontana, sorprende parecchio. Da quello che dici e da quello che so, direi che soprattutto non stanno tornando i conti anche dal punto di vista economico, no? Perché una sfida che presuppone 10 ore d'allenamento al giorno, è chiaro difficile trovare il tempo per lo studio, ma c'è anche necessità di un supporto economico significativo. Eh sì, invece in realtà no, perché comunque la borsa di studio che ci dava la federazione annuale era veramente esigua, calcolando le 10 ore d'allenamento al giorno venivano fuori più o meno 4 euro lordi all'ora, ma anche meno. Borsa di studio che non ti permette una sicurezza economica. Purtroppo non era possibile pensare di avere questa sicurezza e continuare senza laurearsi, comunque laureandosi molto in ritardo, senza avere paura per un ipotetico futuro. Quindi ho dovuto prendere questa scelta che, anche se smettendo non ho più questa borsa di studio, almeno cerco di lavorare per laurearmi il prima possibile e trovare un lavoro vero e proprio. Chi ci ascolta e anche chi ti sta parlando immagina che un bronzo mondiale in qualche modo, non dico che cambi la vita, ma cambia almeno la carriera. Insomma, dopo un bronzo mondiale nel sincronizzato, qualcuno bussa alla tua porta e di solito è pronto ad affiancarti per portarti alle Olimpiadi, perché un bronzo mondiale può diventare anche una medaglia olimpica. Non è andata così, da quello che dici. Non è andata così, anzi, purtroppo io ho trovato, devo dire, poco appoggio. Io avevo fatto delle richieste molto semplici, che era semplicemente di poter frequentare almeno la parte obbligatoria delle lezioni di chimica, di allenarmi con la mia allenatrice e di poter seguire delle ore molto importanti di danza con la mia maestra di danza. E la federazione non mi è venuta incontro. L'università più di tanto non poteva fare e, devo dire la verità, il peso che poteva avere era più o meno lo stesso che ho avuto finora, quindi più o meno nullo. Purtroppo questa medaglia mi ha riempito di grandi soddisfazioni e, anche se poco, un po' di speranze per avere un futuro migliore rispetto agli altri anni, le ho avute, ma purtroppo non sono state attese. Viene da pensare che fossi stato un calciatore di Serie A, i conti sarebbero tornati più facilmente, dice. Insomma, è quasi una maledizione avere un talento per uno sport minore in Italia. Assolutamente sì, ma non bisogna parlare del calcio di Serie A, si può anche parlare del calcio in prima divisione, che comunque prende uno stipendio molto più alto del nostro. Non c'è bisogno di arrivare calciatori di Serie A, e questa è la cosa ridicola. Che nel calcio un ragazzo può laurearsi volendo e giocare in prima divisione, che ha uno stipendio più alto della nazionale italiana di nuoto sincronizzato. È uno sport che richiede tantissimo, perché 10 ore di allenamento al giorno vuol dire fare solo quello. Ti dà grandissime soddisfazioni, assolutamente, uno sport bellissimo, mi piacerà per sempre, ma non ti dà nient'altro, non ti permette di fare nient'altro. 10 ore di allenamento, eppure l'università la stai portando avanti, ma quando studiavi? Io l'anno scorso purtroppo sono riuscita a dare solo 2 esami, perché comunque con lo studio e non avendo le frequenze non ho potuto dare gli altri esami. Studiavo la sera dalle 11 all'1, per quanto riuscissi a capire di quello che leggevo. Quegli 2 esami che hai dato valgono almeno il bronzo, visto l'impegno che ci hai messo. Senti, adesso... qua noi stiamo cercando un modo anche per riportarti in piscina, perché proprio questa storia non ci va giù. Che soluzioni si aprono? Oppure il tuo addio al nuoto al nuoto sincronizzato in questa situazione è definitivo? Perché la rabbia con cui parli di questa situazione, che trapela un po' dalle tue parole, fa pensare che comunque cambiasse questo quadro, in piscina ci torneresti più che volentieri. Allora, la mia è stata una scelta molto sofferta, perché io da settembre, ottobre, fino ai primi di gennaio sono stata molto in crisi per questa scelta, perché comunque non è stato un abbandono facile. Anche smettere dopo una medaglia così è sicuramente uscire a testa alta, però è anche rinunciare a quello che potrebbe venire dopo. Io credo che l'Italia in questo momento sia strutturata in modo che non è possibile fare 2 cose ad alto livello, non è possibile. Senti, tra l'altro, qualche idea per continuare ad impegnarti o per cambiare anche gli scenari del tuo sport ce l'avresti, no? Anche perché ti ho sentito che hai rilanciato l'ipotesi dell'ingresso finalmente in piscina a fianco di voi sincronette degli uomini, come già accade ormai abitualmente nel pattinaggio su ghiaccio, ad esempio. È uno scenario percorribile, secondo te? Ah beh, io sono assolutamente a favore dei maschi nuoto sincronizzato, sia perché così si rende lo sport un po' più vario, comunque più gente che lo può praticare, più gente che lo guarda, magari più interesse. Nel pattinaggio secondo me è fondamentale la presenza dell'uomo, cioè è bellissimo il doppio misto, non c'è paragone con un doppio tutto femminile. E per questo dico che sarebbe bello lavorare, vedere se è possibile anche nel nuoto sincronizzato. Se i bambini iniziano da piccoli non c'è alcun problema, e anzi, quei pochi sincronet maschi che ho visto sono assolutamente molto bravi. Ci si può lavorare sopra, quello che servirebbe adesso sarebbe una brava insegnante, e mi sembra che Beatrice Adelizzi potrebbe essere un'ottima spalla in questo senso, e magari una buona industria di cosmetici che abbia bisogno di una campionessa di nuoto sincronizzato e anche di una brava chimica. Esatto, questa è l'unica strada, mentre aspettiamo che il sistema universitario e l'Italia cambi, perché comunque in America è possibile studiare e fare uno sport ad alto livello, in Italia purtroppo no. Per te, nella tua galleria dei ricordi e anche degli obiettivi futuri, pesa di più una medaglia olimpica a Londra 2012 o il prossimo esame d'università? Beh, io paragono una medaglia alla laurea, non a un esame, sarebbe troppo facile se no. Quindi il mio obiettivo adesso è la laurea, è cercare di recuperare un pochino il tempo che purtroppo ho perso facendo sincro e cercare di arrivarci il prima possibile. Questo è il mio obiettivo adesso. Berruti è al traguardo mentre lo stadio esplode come un vulcano. Vincendo nel tempo di 25, Berruti è entrato decisamente nel quadro dei più grandi atleti del mondo. Per la prima volta nella storia. Se può esserti di incoraggiamento, c'è stato già un altro grande campione dello sport italiano che ha saputo unire la passione per la chimica a quella per, nel suo caso, l'atletica leggera. Sai chi era? No, non lo so. Beh, un certo Livio Berruti che a Roma, come te, nel 1960 conquistò una medaglia storica, quei 200 metri che sono rimasti nella storia con un record del mondo. Insomma, quindi forse tutto sommato è possibile e chissà che quell'esempio poi non porti fortuna anche a te. Allora ti aspettiamo a bordo vasca, eh? Se si trova un compromesso accettabile, se ne può parlare. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e che potete riascoltarci, come del resto tutti i programmi di Radio 24, sul nostro nuovo sito, nella nuova versione di www.radio24.it. Vi ricordo anche che l'appuntamento con A Bordo Campo è per domenica prossima, sempre alle 14.30, ma sabato prossimo torniamo alle 13.15 con A Bordo Campo Campo speciale Vancouver. Continuiamo il nostro viaggio verso le Olimpiadi invernali 2010. Allora, 14.30 domenica a bordo campo con le piccole grandi storie dello sport, sabato 13.15 a bordo campo speciale Vancouver. Un saluto da Dario Ricci.